50 minuti di riparazioni. Buongiorno, buongiorno. Wow, molto, molto, molto soffice questo no, tuo ingresso, soffice, Giulia. No, non sono soffice, Carola, sono mesta, sono molto mesta stamattina. Oggi mesta? Sì, cioè io ho detto soffice e tu invece sei mesta. Soffice è una parola che mi si addice alle volte, ma non oggi. Perché è l'ultima puntata, bravo, vero? Come mi conosci, Leo? È l'idea proprio di non poter l'ultima più parlare. Puntata. Il venerdì non sarà più lo stesso. Il venerdì non sarà più un venerdì. Senza 50 minuti di riparazioni su Radio Città Fujiko, che ci ha ospitato tutte queste settimane. Io sono Leo Merati, tu sei... Giulia Quadrelli. E con noi c'è... Come al solito, il signor Duccio. Eccoci. Eccolo buongiorno. Qua, che le buongiorno. Sfortune non vengano mai da sole, come diceva la Sumà. Sì, mi ma di me. Guarda com'è, sei tutto comodo, non perché so. oggi è un giorno importante per The il signor Duccio. Lo chiamavano oggi, è l'ultimo giorno, ho finito. No, ha finito. Basta le sue 150 ore? Le finisco oggi. Con noi non lo so, ne avrà fatte 8, non so le no, restanti 142 no, dove no, le ha fatte, no, signor Duccio. No, io so per certo che erano tante. Lei sa. Sì, sì. Erano le ha segnate tutte? Tutte quante. Qualcuno le ha segnate per lei? Sì, beh, certo. Non si è neanche segnato le ore da quanto le piace lavorare. Va bene, la vedo veramente adagiato, come dire, perché oggi, caro Leo, ha sbaragliato tutti. Come potrebbe dire il signor Duccio, avevamo finito il capitale umano e quindi... abbiamo preso abbiamo quello disumano. Chiesto a Duccio guardi, lei mi sta simpatico, non le chiede i diritti sulle citazioni. Ah, ok. Veramente, una trasmissione che si regge sulle battute del signor Duccio. Comunque, questa è la nostra ultima puntata dallo studio, perché ricordiamolo prima di iniziare a piangere che domani saremo comunque in diretta da Piazza Roberto Raviola dalle 18 alle 19 per l'evento un po' così, la festa di chiusura, di riparazioni, anche se riparazioni comunque va avanti, poi chi sa che non ci sia una nuova trasmissione radiofonica nel futuro, questo non è ancora dato a sapere. Per il momento quello che possiamo dire, prima di festanti andare dentro la nostra puntata col signor Duccio, è ricordarvi che se volete potete scriverci a riparazioni@abbabo.it. Non l'ha mai fatto nessuno. No, e non credo che lo farà mai nessuno, però la casella di posta è stata aperta. Ci piace rimanere con questa incognita. Beh, per... anche voi non prendete neanche piccioni, cioè uno come vi deve scrivere. Cosa non prendete neanche piccioni, signor Duccio? Cioè non c'è proprio maniera di contattarvi, è una roba... Abbiamo dato l'indirizzo mail. Bene, comunque oggi, signor Duccio, lei mi insegna, dato che è qui in puntata con noi, andiamo un po' a tirare le fila di queste meravigliose 5 con oggi 6 puntate che abbiamo vissuto insieme e tutti questi 2 mesi di riparazioni, insomma facciamo un bilancio di questo progettone. Chi meglio di lei per tirare esatto, le fila? Esatto, perché alla fine della fiera io mi sono vissuto tutto l'andabaran. Tutto stato che qui cosa? Sempre. L'andabaran. Sono vissuto stato qui sempre io. Sempre stato lei attivo, più pimpante. Senta, e a proposito, qual è stata un po' la sua puntata preferita? Tutte belle, tutte brave. Tutte brave le puntate, sì, sì. Le colleghe, sì, sì. Quelle... e un po' diciamo degli eventi di riparazioni tra conferenze, laboratori, eventi serali, c'è stata la sfilata. Qual è stato un po' il suo evento preferito? No, tutti belli, tutti bravi, anche gli eventi. Quello che dire. Si dice uno sguardo critico comunque. Sì, sì, sì, guardo sì, oggettivo, curioso, pieno. Curioso e pieno, sono proprio i due aggettivi che userei per lei, signor Duccio. Senta, allora io direi così, visto che è un po'... Non si rilassi troppo, Mi stia sul pezzo. Visto che è un po' una puntata importante questa in cui facciamo un bilancio del nostro programma radiofonico. È come le altre, come le altre. No, come le altre, però abbiamo invece degli ospiti speciali, anche nelle altre puntate, ma oggi particolarmente speciali. E oggi apriamo con la nostra prima ospite che per questo quartiere, a cui riparazioni e quindi anche 50 minuti di riparazione dedicato, è veramente un personaggio d'eccellenza. Autorevole, diciamo. Autorevole. Istituzionale. Finalmente ho qualcuno. Finalmente arrivano le istituzioni. Oggi abbiamo le istituzioni con noi. Infatti, diamo il benvenuto alla presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole. Buongiorno. Buongiorno. E ben benvenuta. Ben arrivata. Grazie. Allora, noi ci siamo preparati a questo incontro istituzionale, abbiamo fatto una piccola ricerca sul suo curriculum per sapere un po' oggi con chi avevamo a che fare, e il signor Duccio... Infatti abbiamo, l'ha fatta forse fatto il signor Duccio. L'ha fatta il signor Duccio, vabbè, l'ha fatta il signor Duccio, non togliamo... Diamogli merito, del merito. Non togliamo... Grazie. Raccontaci un po' che cosa abbiamo... Allora, Rosa Maria Amorevole è esperta di mercato del lavoro, analisi delle organizzazioni e diritto antidiscriminatorio, si è occupata di progettazione, formazione e ricerca, è stata consigliera di parità per il ministro del per il Ministero del Lavoro, scusate, presso la provincia di Bologna e presso la regione Emilia-Romagna. È stata componente del consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna ed è stata anche consulente per numerose pubbliche amministrazioni per le tematiche di competenza. E dal 2016 è la presidente del quartiere Santo Stefano. Preciso, puntuale. Bravo, signor Duccio. E adesso bravi anche noi a interfacciarci con cotanto ospite di oggi. Partiamo subito con le domande. La nostra prima curiosità di oggi è: che cosa significa essere una presidente di quartiere e nello specifico di questo quartiere? Beh, essere presidente di quartiere significa innanzitutto che stai poco a casa e quindi sei sempre per strada a sentire le persone che ti raccontano cosa c'è che non va, quali sono le problematiche, eccetera. Fondamentalmente noi siamo impegnati come quartiere nel lavoro di comunità, nella cura del territorio e delle persone che questo territorio abitano. Cioè il cittadino non va dal sindaco subito, magari va in quartiere a dire che non gli funziona il bidone dell'immondizia oppure che c'è qualcuno che fa confusione sotto casa sua. In questo senso possiamo dire che abbiamo cercato di dare un po' di contributo noi in queste settimane dialogando con questo quartiere che ospita l'Accademia. Sì, invece poi le volevamo chiedere che appunto questo quartiere comprende sia via Santo Stefano e via Farini, quindi una zona molto diversa da quella appunto di via Zamboni e di via delle Belle Arti, e quindi come si può definire l'identità di questo quartiere, vista questa dualità, diciamo, molto forte? Bella domanda, perché non è solo una dualità, direi che è una situazione molto, molto articolata, perché appunto dal 2016 il nostro quartiere Santo Stefano prende praticamente quattro vecchi quartieri, quindi abbiamo realtà che sono completamente diverse, perché andiamo da una collina a un centro città che è il classico centro città, a una situazione più universitaria, a dei quartieri più residenziali o più, diciamo, di una prima periferia. Quindi qual è l'identità? Sono molte identità. Io penso che ormai le città moderne non abbiano più un'unica identità. Dunque un lavoro anche di grande flessibilità e trasversalità per riuscire a capire... Oggi se sei rigido puoi fare solo la trave, non puoi fare nessun altro lavoro, mi dispiace. Se non sei flessibile, se non sai cogliere il cambiamento, le città sono una cosa così viva. Perché è vero che i monumenti sono sempre lì e sono sempre quelli, però le persone e la popolazione cambia in continuazione. E invece venendo un pochino più insomma, a legarsi al tema del progetto di cui noi facciamo parte, che è Riparazioni, in cui siamo stati impegnati in queste settimane, al di là di questa proposta ideata e realizzata dall'Accademia di Belle Arti, quali sono i modi in cui il quartiere Santo Stefano prova o opera per prendersi cura delle problematiche del quartiere stesso? Ma sicuramente molto l'incontro diretto con le persone, con i gruppi, ma anche il fare delle cose assieme, cioè per esempio noi siamo un quartiere che sviluppa, che sottoscrive moltissimi patti di collaborazione, è un nuovo tipo di contratto tra la cittadinanza, sia essa in forma singola, in forma associata, in forma formale o informale, per condividere insieme la cura di un pezzo della città. Per esempio, questo è un elemento molto importante, perché l'idea, il cittadino non è un qualcosa di passivo, cioè noi dobbiamo avere avere un rapporto, come dire, di reciprocità. Il vostro progetto Riparazioni è innanzitutto un'idea molto interessante, a parte partire dal titolo, perché noi dobbiamo lavorare sul rammendo, sulla riparazione, sul ricostruire delle reti di vicinato. Questo è un tema che i sociologi ne parlano da tanto tempo, soprattutto gli americani. Poi è arrivata anche da noi questa esigenza, proprio perché si è rotto quel legame che le piccole comunità spesso creavano, e quindi lo dobbiamo ricreare. Con le istituzioni, quindi vedere l'Accademia che esce dalle sue aule e in qualche modo invade la città, ma invade in un'ottica propositiva, è per noi un elemento molto interessante, perché non solo ci permette di costruire su anche degli spazi complessi delle iniziative che tendono a migliorare sempre questa situazione, ma soprattutto lega dei contenitori che spesso rimangono separati. Cioè, se l'Accademia fa anche delle cose bellissime, ma rimangono tutte tradette ai lavori, non viene, cioè non ibrida nulla fuori. Invece, andando fuori, lancia quelli che sono i vari pollini e si possono costruire delle situazioni molto interessanti. Riprendendo anche un po' questo discorso, noi appunto volevamo chiederle quale legame c'era tra l'istituzione appunto che del quartiere e i vari poli di studio, come sono appunto l'Unibo e la Babo, che comunque sono due realtà molto diverse ma che convivono nello stesso... Devo dire che con l'Accademia il rapporto è sempre stato molto positivo. Devo dire, sia adesso con l'attuale dirigente, sia con il dirigente che l'ha preceduta. Con l'università, il dialogo è un pochino complesso. È un pochino complesso perché la città forse si presenta già con una dicotomia molto forte, no? Studenti e residenti. Allora, ecco, io quello che mi auguro che si possa creare un dialogo molto più aperto, proprio per lavorare insieme, non per lavorare contro. Cioè, noi lavoriamo in un'ottica di rete e quindi ogni apporto dei singoli elementi può essere importante per migliorare una situazione territoriale. Quindi mi auguro che al di là dei singoli docenti con cui possiamo avere dei riferimenti, ci sia anche una maggiore disponibilità, perché per esempio ascoltando anche molto i residenti di questo un po' si lamentano. Quindi ringraziamo comunque il vostro progetto, che quantomeno ha tentato e sta lavorando per un intreccio tra studenti, studentesse e residenti. Abbiamo provato a fare proprio questo. Ci ha detto prima, lo ripetiamo anche per chi è in ascolto, che sarà con noi questo sabato, primo luglio, per l'evento Donare Arte di Riparazioni, quindi ci sarà un ultimo intreccio, il primo di tanti. Venire, però per questo momento per noi in radio, diciamo, visto che saremo anche in diretta, un intreccio per incontrarci nuovamente. Noi la ringraziamo tantissimo per essere stata qua con noi, per le sue risposte, la sua disponibilità. Signor Duccio. Beh, niente, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. Beh, signor Duccio, direi insomma che è stata una bella puntata già fino ad ora, un incontro così. Si è comportato bene davanti alla presidente, non si prende quelle libertà che si prende con noi, l'ho visto tutto bello impettito. Senta, quindi dica. Queste 50, quante sono? 50 minuti di riparazione, 150, ma 150 ore sono state una bella esperienza anche per lei, eh? Ha imparato tante cose anche... Ma sai, alla fine è un po', come diciamo, ma lavorare stanca. Guardi, io adesso sono molto stanco. Era stanco anche la prima puntata. Lei, secondo me, è nato un po' stanco. Non so cosa diceva la Sumà, però... Beh sì, in effetti me l'ha ripetuto spesso. Però insomma, vabbè. Ha anche incontrato tante personalità, cittadini, sì. Abbiamo avuto tanti ospiti. Oggi abbiamo aperto con un ospite di tutto rispetto. Tanti discorsi. Ha imparato cose nuove? Ma guardi, più che imparato ho capito. Ah, ho capito che questo non lavoro, tutti lo possono dire. Esatto, questo lavoro di ufficio, queste cose, questa manovalanza non fa per lei. Non so, c'è questo sentore. Io devo prendere le decisioni per gli altri. Guardi, io sinceramente decido volentieri anche per me, non so se... Però, in che senso... No, che in pratica ho sentito i miei amici soliti, no? Ma quali amici? Ma i miei amici, quelli lì. Vabbè, praticamente ho chiesto se si poteva fare, mi hanno detto di sì, e quindi ho deciso di scendere in campo. No, guardi, signor Duccio. Sì, sì. Sono affermazioni, come dire... Sembra il mese giusto. Esatto, è un periodo in cui alcune locuzioni forse è il caso di evitarle. Ho deciso di scendere in campo e di creare questa nuova figura, diciamo, di potere. Cioè di potere. Di potere, adesso. Sì, che sarà il signore del quartiere. No, ma non esiste il signore del quartiere, abbiamo appena avuto la presidente, direi che basta. I miei amici mi hanno detto che si può fare, quindi io vorrei diventare il nuovo signore del quartiere. Il signore del quartiere, che cosa farebbe il signore del quartiere? Ho già delle idee, diciamo. È un programma, insomma. Sì, perché mi hanno detto che qua funziona, che in pratica ci sono tipo delle elezioni. Sì, bisogna votare. Se lei vuole. Vabbè, sì, però... Esatto, ha capito. Leo, scusa, non gli dare manforte, abbiamo appena avuto la presidente del quartiere, un personaggio con un peso specifico importante. Sì, dovrò fare questo programma elettorale un po' per far capire alla gente... Qual è un po' il suo punto di vista, sue promesse sul quartiere. Le mie promesse, Ecco, guardi, se ce lo vuole lei, io sono un po' scettica, dico il vero, però... E diciamo che mi sono un po' ispirato per questo programma elettorale alle varie altre puntate che comunque ho visto che più o meno toccavano dei nervi scoperti del quartiere. Ah, guarda, le siamo stati anche utili quindi. Sì. Beh, allora avrà tante proposte, insomma, sensate anche di spessore, perché abbiamo fatto un programma di spessore. Sentiamo questo programma elettorale del signor Duccio. Io ho capito che siccome a me piace, cioè anch'io sono un tipo casalingo, ho capito che la casa qui è un problema. Beh, questo effettivamente è un problema, consistente. Addirittura ho degli amici che mi hanno detto che i figli non riescono a trovare una casa che non abbia almeno una torre o un bastione, che per me è una cosa aberrante. Guardi, signor Duccio, francamente io ho amici che faticano a trovare una camera con una finestra. Ma gli amici suoi hanno degli stati. Vabbè, comunque... Io diciamo che per risolvere le problematiche sia dei miei amici ma anche dei suoi amici. Solo lì... degli amici, la politica si fa così tra amici, giustamente. Praticamente cosa vorrei? Mi piacerebbe cementificare tutto il giardino del guasto. No, guardi che il guasto è già di cemento, più cemento nel quartiere, uno dei miei punti. Proprio il verde eliminato. No, basta. Verde... alcuni ce l'avranno, altri meno, ecco, diciamo. Beh, direi uno slogan vincente, più che cemento nel quartiere. Nel 2023 mi sembra anche molto attuale. Esatto, no? Assolutamente. Esatto. Vorrei cementificare per costruire uno studentato. Beh, guardi, adesso sulla cementificazione non sono d'accordo, però studentato ce n'è molto molto bisogno. Esatto, questa potrebbe essere una proposta interessante. Vorrei una bella piramide. No, Leo, non so di tu, però non mi sembra una struttura efficiente. Sì, non molto efficiente. Ma quelle dei faraoni sono ancora intatte, quindi direi che mi sembra efficiente. Avranno ragione loro. Sento già un odore di schiavismo quasi. No, ci mancherebbe. No. Comunque, praticamente questa piramide a 15 piani funzionerà che in base all'ISEE uno vive dove se lo può permettere, ecco. Beh, adesso... Quindi tipo, lei vivrà nei piani naturalmente più bassi, alla base. Però grazie al suo ISEE basso non dovrà pagare l'affitto, ma potrà pagare la sua residenza lavorando per quelli che stanno ai piani più alti. Ah, quindi al servizio di chi ha un ISEE. Lei è brava a fare le pulizie, sa fare anche cambiare le lenzuola. Guardi, al di là del fatto che io faccio schifo, le lenzuola sì, fino lì ci arrivo, non so lei. Però non mi sembra così una proposta democratica. Vabbè, ma per tenersi la casa imparerà a fare anche le pulizie. Ah, ma per tenerti la casa mi sa che impari a fare tutto, no? No, se uno ha l'ISEE alto non fa niente. Lei come ce l'ha, Alice? Scusi. Non glielo sto neanche a dire. Comunque, è un po' una win-win situation. Ah, proprio una win-win situation. Sì. Attenzione. E mette un po' d'accordo tutti. alcuni sotto, alcuni sopra. Un po' Marchese del Grillo mi ricorda questa proposta. Sì, vorrei ringraziare, un omaggio. Beh, senta, da intanto che lei pensa ancora al programma elettorale, io direi che per stare su una win-win situation lancerei un brano di quelli scelti. Quelli scelti da Daniele Di Feo, che questa volta oggi ci porta a Biarritz. La. Insieme alle sacerdotesse dell'Isola del Piacere. siamo sempre qui a 50 minuti di riparazioni per la nostra sesta e ultima puntata in compagnia di Leo Merati, Giulia Quadrelli e il signor Duccio, che ci stava snocciolando il suo programma elettorale. Esatto. Per diventare il signore del quartiere. È stato detto, ispirato dall'intervento della presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole, che direi non ha nulla da temere per il momento da questa concorrenza, però se lei vuole continuare a raccontarci il programma elettorale, vada. Allora, in pratica poi mi hanno detto che, cioè, ho pensato che per questa questione del ricordo, no, del rimanere nella memoria. Beh, la nostra seconda puntata, esatto. Un discorso sulla memoria del quartiere. Che sicuramente dovrò fare dei cartelloni pubblicitari. Beh, questo che... mi sembra proprio un'intuizione così geniale. No, però mi hanno detto che vanno fatti sempre questa questione delle elezioni lì, come le chiamate. Sì, lezioni. Appunto, vorrei questi cartelloni con la mia faccia molto grande con lo slogan Forza Quartiere. Guardi, signor Duccio, ha scelto proprio il mese giusto. Sì, per... sì. Lo forza sento. Forza Quartiere. Sembra che ricordi qualcosa, ma meglio non indagare. Forse solo a me. La nostalgia. No, devo dire che ci sono. Forza Quartiere. Sì, un po' nostalgico, un po' canaglietta, lasciamo perdere. Esatto. E poi, però, invece, no, per strizzare anche un po' l'occhio ai più giovani. Beh, diciamo, anche perché siamo parte dell'Accademia, noi direi che... Infatti, a proposito di questi dell'Accademia, vorrei reclutare qualcuno di questi writers. Di che cosa? Writers. Ah, di writers. Però è molto bello quello promozione. Writers. Io forse di prima writers. Di investire su un programma elettorale, signor Ducci, investirei in un corso d'inglese, però tanto loro capiscono questi qui. E in pratica gli vorrei... basandomi, no, su quel famoso murales del treno di cui parlava la professoressa, appunto, basandomi su questo treno, vorrei che mi facessero sempre un altro treno, però più grande, sempre lì su quella parete. Più grande, sì. Megalomane. Che ogni vagone è un po' come, ha presente le predelle che stanno sotto le pale d'altare, no, con la storia. Ecco, io vorrei che ci fosse disegnata la mia storia, no? Magari con tipo... la Via Cruci. Sì, che ne so, i miracoli, le crocifissioni dei miei nemici. E ho pensato, perché no, anche qualche sorriso, eh? Qualche moneta ai mendicanti, queste robe qua. Guardi, signor Duccio, mi sembra che questo suo programma elettorale si ispiri un po' a cose già viste. Non vorrei... inizierei a pensare a proposte un po' più per il quartiere, un po' meno sui sorrisi. Però, veda lei, nel frattempo noi per farla riflettere meglio, cosa andiamo facciamo? Andiamo in pubblicità. Vabbè, grazie. Oh, eccoci qua, finalmente sono da solo. Questi sono 50 minuti di riparazioni. 50 minuti di Leo Merati. No, è arrivata anche Giulia. Bentornati. Giulia, dove siamo? Siamo a 50 minuti di riparazioni, la nostra ultima puntata purtroppo, e purtroppo in compagnia del signor Duccio, che è ancora qui, che va avanti con questo suo programma elettorale. Non mi muoverete mai. Non lo muoveremo mai, non vogliamo assolutamente privarci degli ultimi punti del programma elettorale per candidarsi a diventare signore del quartiere dell'Accademia di Belle Arti. Prego. Allora, in pratica con la puntata di Custodire, no? Mi hanno fatto conoscere la Pinacoteca. Bellissimo e sì posto. Che mi hanno detto i miei amici, no, che devo fare una grande opera pubblica, perché mi hanno detto che poi con questi appalti che fanno loro, no? No, ma quali appalti? Ma sì, cosa sta dicendo? Che poi ci si va tutti in vacanza con gli appalti. In pratica, vabbè, mi hanno detto questa cosa e quindi ho pensato di ristrutturare completamente la Pinacoteca, di cambiarla. No, guardi che va già benissimo così la Pinacoteca. No, ma andrà meglio, perché in pratica io la vorrei trasformare in un grande mausoleo per la mia stirpe. Insomma, modesto, sì. Poco egoico. No, lo so, perché magari di solito uno dice, un mausoleo è poco, facciamo almeno qua. Ma io uno mi basta. E vorrei appunto queste grandi sale celebrative con una statua grande, tipo 60 metri, metro più, d'oro, che spara laser dagli occhi nei confronti di chi, no, non porge abbastanza omaggi a mia memoria. Guardi, mi sembra un po' eccessiva questa cosa. Sicuramente aumenta il valore storico e turistico del quartiere, cioè io pensavo un po' a una nuova Mecca, diciamo, ecco. Mi sembra sì, in linea col programma di riparazioni. In linea con riparazioni. Esatto. Ma andiamo allora, magari al prossimo punto. Che sì, allora, per il, prossimo, per il prossimo punto, siccome quelle lì, quella puntata lì di coltivare, no? Quella puntata lì, la quarta. La nostra puntata su sì, coltivare. Esatto. C'erano questi ragazzi che dicevano, ma noi abbiamo queste skits qui. Che cosa? Le skits degli studi, che ci facciamo con queste skits? Lei proprio, cioè quella dell'inglese di skits. Esatto. Allora ho pensato di diamogli un lavoro a questi ragazzi, diamogli un lavoro. Oh, signor Duccio, guardi, qui che mi anche, dispiace dirlo, non riesco a darle torto. Esatto, siccome ho fatto dei soldi ora e ho bisogno di gente che lavora, anche per un discorso di trasparenza di questa questione delle elezioni, no? Di farmi vedere bravo con la gente, con quelli lì come lei, no? Presente. Ma come me cosa? Io sono qui che a lei lavorare, è sempre grata al datore di lavoro, no? È contenta, gli va... Sempre, tantissimo. Esatto. Vabbè, comunque, insomma, qui ho portato a fare dei colloqui delle ragazze. Delle studentesse. Eccole qua. Neolaureate. Esatto. Neodiplomate. E gli farei proprio dei colloqui di lavoro per far capire alla gente che, appunto, sono bravo. Ah qui in radio un colloquio esatto, di lavoro? Esatto, no? Sì. Okay. Sì. Beh, se proceda. Si può fare. Ormai loro sono venute qui, direi che... infatti, grazie. Allora... qui, ecco la prima ragazza, lei come si chiama? Salve, sono Maria. Ok, Maria, nome sacro, antico. Già. Maria bella e brava. E senta, Maria, leggo qui dal curriculum che lei è archeologa. Quali sì. esperienze di scavi ha avuto? Varie, l'ultima a Claterna, qua vicino, Uzzano. Ma ha usato per caso spazzole e stracci? Cioè, brava con quelli? Non sono proprio gli strumenti dell'archeologo, però... Ok, no, perché io ho tante corazze, armature, l'argenteria. No, ma guardi, signor Duccio, non è che un archeologa può prendere come lavoro il pulirle le sue corazze. Sa che è lucido dopo. Sì, ma sa che spreco, no, guarda, non mi sembra una buona idea. Ti interessa? No, non mi interessa. Vabbè, arrivederci, questi giovani. Vabbè, se n'è proprio andata la ragazza. Sì, no? Ma non hanno voglia giustamente. Di lavorare, è vero. Allora, lei invece è... Rosa, leggo qui che ha studiato scienze delle comunicazioni. Esatto. Ma che comunicazioni sa fare? Perché le spiego, io ho questo antenato che sono abbastanza sicuro che abbia nascosto un tesoro nelle colline toscane. Lei lo saprebbe rintracciare perché nessuno ha trovato dove l'ha messo. Non si sa. Lei ci saprebbe comunicare con questo mio antenato o no? Temo di no. Temo anche io, signor Duccio, è fuori strada con Vabbè, questa sua... Leggo qui, mi hanno detto che in pratica scienze delle comunicazioni e anche delle merendine. No, guardi, scusi, mi permetto di dire, questo detto. È offensivo, questo detto. È offensivo. Però questa è bella cultura. Questa. Adesso, è solo perché cultura generale. Tu l'hai studiato. E quindi mi domandavo, lei sa fargli gli sdigiunini? Cosa sono gli sdigiunini? Che io tipo a volte durante la giornata, magari verso le 4, mi viene quel languore. Lei saprebbe arrabattare così una bruschetta? No, ma quale bruschetta? Io penso che lei abbia un po' confuso le cose. Vabbè, anche via, io. Ho capito che dobbiamo passare sì, alla prossima. Sì, guardi, vada avanti che è meglio. E se ne va anche lei comunque. Se ne va anche questa. Vabbè. ben arrivata. Lei invece è? Cecilia, che fa lei? Lei ha studiato all'Accademia, pittura all'Accademia, leggo. Sì, appena diplomata. Ma quindi coi pennelli ci sa fare, com'è? Sì, nel senso dipingo su tela, su tavola. Ah, e sul muro? Dipende. Perché io ci avrei... Fresco. No, che, perché la, esatto. Perché la casa che ho comprato adesso ha dei muri veramente vecchi che non mi piacciono molto. Avrei bisogno proprio di due passate di bianco, magari anche qualche affresco se si fa ispirare. Ma siamo un progetto dell'Accademia di Belle Arti, ma non può offrire due pennellate, una parete a una studentessa che sia diplomata in pittura, via. Le saprà fare, no? Sì, certo, dipende anche quanto paga. No, io le posso offrire vitto e alloggio. Chiaramente, glielo dico, gli alloggi sono quelli proprio lontani, brutti, l'ala più buia, angusta, che a me non piace vederli, glielo dico. Ok, non penso di essere la persona adatta. Vabbè, niente. Via, ho beh, capito. Guardi, signor Ducci, un successone. Non so che un successone questo suo programma. La gioventù sul è terribile, è terribile. Vada avanti, guardi, se ancora altri punti, ormai esauriamo questo forza. Programma elettorale. Cioè, perché... portiamolo alla fine, sì. Più che altro questo programma elettorale, perché... Se no arriva la nostra di fine, vabbè. Vai. Allora, in pratica... Vabbè. Questi giovani, vabbè, comunque in pratica io è un no. Po', è un po' contrariato. È quasi piccato. Sì, sì, un pochino sì, un po' mi dispiace, ma mi dispiace per loro, mica per altro. Comunque, insomma, come ultimo punto, ecco, vorrei parlare del mio piano urbanistico per il quartiere. Ah, veramente trasversale, sì, lei, sì, piano sì, urbanistico, no, bello questo. No, che andando in giro per il quartiere, no, io ho notato che mancano dei posti che secondo me sono fondamentali, non tanto per il quartiere, ma proprio per una civiltà. Beh, per esempio? Ad esempio, no? Poi mi sono chiesto, Anna, ma tutte queste biblioteche servono davvero? Beh, direi di sì, siamo nel quartiere universitario dell'Accademia. Rispondo io, Giulia, secondo me non servono, non credo. Anzi, questi libri, io proporrei di usarli per accendere dei grandi bracieri. No, guardi, anche questo è un po' sì. Pericoloso. Già stato visto, credo. No, no, no, no, no, no, no, non come i roghi, no, no, lo no. Zio, no sì. I bracieri che serviranno a illuminare un'arena gladiatoria che voglio costruire al posto dell'orto botanico. No. Tutta in cemento anche questa. Guardi, abbiamo anche intervistato un lavoratore dell'orto botanico, non beh, credo... Beh, ma ci potrà lavorare poi anche lui... all'arena. Mi piacerebbe perché ho sentito dai miei amici che manca proprio l'ascensore sociale in questa città e quindi io vorrei far combattere quelli che hanno l'ISEE un po' più basso, no? Quelli lì anche tra di loro magari contro delle bestie feroci, non lo so, per... Guardi, e poi se Duccio. Vincono possono salire e ascendere. Ma io non lo troppo so. Troppo in alto, però, perché mi preoccuperei certa... di altri ascensori, magari ferma, quelli dei palazzi. Sì, non la vedo sì. Molto questo in linea con il nostro programma. Un'arena gladiatoria. Sì, bellissimo. Veramente credo che tutti la voteranno nel quartiere. Ha finito. Guardi, signor Duccio, la ringrazio tantissimo per questo programma elettorale che lei sta snocciolando qua con noi oggi. Proposte veramente di un certo livello, però. Proprio per stare su un certo livello, io adesso lascerei spazio alla seconda ospite che è venuta a trovarci in questa puntata. Continuiamo veramente su un certo livello istituzionale, mi spingerei a dire, perché dopo la presidente di quartiere oggi abbiamo la fortuna di avere qua con noi per la nostra puntata conclusiva la direttrice dell'Accademia di Belle Arti, Cristina Francucci. Buongiorno, buongiorno. E grazie dell'invito. No, grazie a voi di averci chiamato a fare questo programma, di ospitarci in casa vostra, in questo meraviglioso studio che abbiamo creato qua nella vostra sede del Guasto. Siamo molto contenti di poter fare insieme una chiacchierata su questo progettone riparazioni che ha invaso, come ha detto prima la presidente, nel modo migliore del termine le strade di questo quartiere, in particolare via Belle Arti, in queste ultime settimane. E l'abbiamo raccontato tante volte, però più che altro con parole nostre, ci faceva piacere a questo punto raccontare un po' insieme proprio perché è nato questo progetto di riparazioni. È proprio nato da un'esigenza, anzi forse ancora meglio da una richiesta di aiuto, perché sia io che la direttrice della Pinacoteca, Maria Luisa Pacelli, di fronte a delle grosse difficoltà rispetto al luogo dove si trova la Pinacoteca e l'Accademia di Belle Arti, cioè proprio Piazzetta Raviola, Roberto Raviola, è uno spazio attraversato da grossi problemi di degrado e di marginalità. Abbiamo cominciato a chiedere se c'era un modo per risolvere, no, questa situazione. Una cosa però alla fine ce l'hanno proposta, un po' un metro finanziato dall'Unione Europea. Ecco, che allora qual è stato il pensiero, e comunque anche quello in cui noi crediamo fermamente, che in qualche modo l'arte, no, possa, l'arte e i suoi linguaggi, possa in qualche modo avere... riparare. Beh, quindi da qui il titolo, proprio riparazioni, rielaborare ad arte un'animazione creativa appunto crea anche l'idea di uno spazio, di un concetto di inclusione, un'idea di coinvolgimento e quindi un'idea di rivivere certi spazi in modo con un senso di comunità e socialità. E quindi, cioè, come è avvenuta questa animazione della piazzetta e di conseguenza chi ha coinvolto e come? Beh, devo dire che Riparazioni appunto ha avuto tante azioni differenti. Ci sono state delle conferenze con artisti, con registi, personaggi dello spettacolo, insomma, che utilizzano la loro arte proprio in senso riparativo. Cioè c'è una mostra che adesso è ancora in corso e che è nella sede del Baraccano fino all'8 luglio. Fino all'8 luglio, che si chiama La casa nel piatto, e per esempio che ho visto coinvolti degli studenti che hanno incontrato delle persone senza fissa dimora, e da questo incontro, un incontro che ha come mediazione o come l'idea del cibo, della cucina, quindi usare appunto questo tema proprio per entrare poi in contatto con queste persone e parlare anche di ricordi, di cose. E tutti questo tema, questi ricordi di queste persone, le loro emozioni, sono state poi interpretate dagli studenti con delle opere d'arte che sono appunto visibili all'interno di questa mostra. Sarà anche un film sempre dedicato alle persone senza fissa dimora, dal titolo Una città di cartone. Gli eventi che, come dire, sono più rappresentativi della nostra istituzione e del nostro percorso di studi sono proprio i laboratori che sono stati realizzati appunto all'interno, cioè in questo fatidico luogo che è la piazzetta Raviola, che molta gente adesso mi ferma anche, non so, alle inaugurazioni delle mostre, così mi dicono: ma questa piazzetta Raviola che cos'è? Dov'è? Nessuno ne aveva mai sentito parlare, tanto è vero che all'inizio la gente, siccome è una piazzetta all'interno di Piazza Puntoni, molta gente poi la girava e non trovava, anche quando abbiamo fatto la conferenza stampa, per esempio, dell'inaugurazione dell'opera Site Specific di Flavio Favelli, che si chiama Pulpito e altre figure. Io veramente ho chiesto a Favelli uno speaker corner, che chiaramente lui ha dato il suo titolo Pulpito e altre figure, mi va benissimo, anzi gli ha dato anche più forza, più importanza, ma questa l'idea era uno speaker corner proprio perché diventa questa opera d'arte, diventa proprio il simbolo un po' di Riparazioni, no? Proprio l'idea di un pulpito dove chiunque può parlare, può dire la sua. Dare voce alla piazza. Dare voce alla piazza, dare voce alle gente, è proprio il simbolo di dare voce alle persone in quello spazio, no? Dove a volte la voce è un po' soffocata, diciamo, no? E tra l'altro è stato anche coinvolto il pubblico, diciamo, delle persone che, come dire, abitano questo spazio abitualmente giorno e notte, anche, no? Ecco, in cui lì fanno tutto, diciamo, risolvono qualunque loro problema. E quindi, che però sono state coinvolte. Per esempio, ho un ricordo molto divertente di uno dei laboratori che abbiamo fatto però l'anno scorso, che era Pasta Working, che era questo laboratorio dove si faceva proprio la pasta è chiaramente una pasta dove gli studenti avevano inventato delle forme della pasta estremamente artistiche, chiaramente, e quindi la gente veniva coinvolta per la pasta che poi si poteva portare anche via. Ecco, due di queste persone hanno fatto anche loro la pasta e proprio, insomma, come dire, si proponevano anche di farla e anche di venderla poi. Quindi avevano già di necessità, modo, virtù. Esatto, un modo di monetizzare le cose. Però la cosa più particolare che mi è capitata è proprio quella di aver visto il giorno dopo una di queste due persone che aveva costruito una sorta di installazione, e io non volevo credere ai miei occhi, devo dire la verità, installazione con degli spaghetti. Cioè aveva costruito un'opera d'arte all'interno della piazzetta Raviola con degli spaghetti. Ecco, questo penso che sia uno dei successi proprio, no? E quindi anche questo è un modo per vedere proprio delle tracce del vostro operato sull'ambiente in cui avete proposto questa attività. Se dovessimo brevemente raccontare quelle che sono le tracce che Riparazioni lascerà anche dopo il progetto, ci saranno cose nel quartiere che possiamo continuare a vedere, oltre i laboratori, oltre le conferenze, quali possiamo immaginare, quale lascito possiamo immaginare? Beh, intanto noi speriamo che la cosa più importante che rimanga Pulpito e altre figure all'interno della piazza, perché come dicevo è il simbolo di Riparazioni. E domani, se non sbaglio, ci saranno anche dei libri dell'Accademia che verranno illustrati da degli studenti durante, insomma, la festa che facciamo, Donare sì. Arte, verranno Donare illustrati. Donare Arte, io credo, questa è la seconda edizione, nel senso che l'abbiamo fatto l'anno scorso e fu stato un successo incredibile. E quindi viene ripetuto. Viene ripetuto e regaliamo, no, libri, regaliamo libri sia della Pinacoteca che dell'Accademia, e gli studenti nella quarta di copertina segneranno e ricorderanno l'evento con un'immagine, e quindi per chi ci sta ascoltando, domani dalle 4 alle 20 ci troverete in Piazza Roberto Raviola per partecipare a questa festa così di un po' saluto anche per l'estate che comincia di Riparazioni. Ci troverete, per chi non può venire, ma speriamo di sì, in diretta dalle 18 alle 19, ve lo ricordiamo, seguire anche questo evento, e sicuramente domani posso troverete dire una cosa, certo, che ci sarà anche il carretto dei gelati che non guasta. Ecco, questa era importante. Ecco, signor Duccio, quindi gelato gratuito per tutti e anche una band musicale. Quindi domani, e ci sarà anche la direttrice. Ci sarà certamente anche la direttrice. Che noi ringraziamo per essere stata qua insieme a noi, per aver accompagnato questa nostra ultima puntata, averci raccontato un po' l'anima dall'interno del progetto Riparazioni. Ci diamo appuntamento domani e proseguiamo questa finale di puntata prima di salutarvi. Grazie ancora. Grazie ancora. A voi. Ed ora un altro breve stacco musicale, una canzone veramente un po' d'atmosfera conclusiva. Vi salutiamo con i Joy Division, ma torniamo per i saluti finali. the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, sit down with due care, don't walk away, inside. Mamma mia, questo scampanellio finale dei Joy Division con Atmosphere mi ha veramente fatto salire ancor più magone di quello che già non avevo. Leo, ti vedo un po' triste. No, io non sono per niente triste, ma poi ti spiego perché. Allora, signor Duccio, anche lei la vedo un po' abbacchiata, eh? Stanco. Stanco, no? L'abbiamo un po' spremuto in queste puntate. Basta. Vabbè, ma guarda, sia tranquillo perché siamo veramente giunti al momento finale e come si suole il momento finale è anche quello dei ringraziamenti finali. Noi vogliamo ringraziare ancora una volta Radio Città Fujiko per averci accolto e ospitato sulle sue onde in queste settimane. Naturalmente grazie all'Accademia di Belle Arti e alla direttrice Cristina Francucci, che oggi è stata qua con noi per averci invitato a partecipare a questa bellissima avventura di riparazioni. Grazie al professor Daniele Campagnoli del corso di organizzazione e produzione dell'arte mediale, che ci ha voluto in questo suo progetto. E un ultimo ringraziamento, adesso li dico tutti velocissimi in chiusura i loro nomi, ai ragazzi e alle ragazze del corso che hanno progettato 50 minuti di riparazione con noi. Loro sono Diana Cava, Maria Rosa Cuccitto, Daniele Di Feo, Chiara Mascellani, Neva Reali, Valeria Scardino, Francesco Zanlungo e c'è scritto anche un certo Jacopo Cotalini, che però io non ho mai visto, non è venuto in puntata con noi. Vabbè, si vede che non frequenta tanto lui. Sembra un bel ragazzo, Dal nome, ragazzo. Va bene, io vi ringrazio, vi saluto e per voi che siete stati all'ascolto, grazie per averci seguito. E ora Giulia, è arrivato proprio il momento di chiudere tutto ed è venuto qui in redazione per sigillare questi 50 minuti di riparazioni il nostro direttore musicale Daniele Di Feo, che chiuderà questo bellissimo viaggio che è stato 50 minuti di riparazioni. Ciao.